Nessun luogo. Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci. Un buon sabato, ben ritrovati gentili ascoltatori, Nessun luogo è lontano. Il buon sabato vi arriva anche da Nadia Zammitti e Matteo Comes alla parte tecnica. Vi ricordo che anche questa puntata la potete commentare su Facebook, il profilo è Nessun luogo è lontano trattino Radio 24, e anche su Twitter Nessun luogo 24. Infine commenti e suggestioni anche alla mail nessunluogo@radio24.it e gli sms 349-238-6666. La storia che voglio raccontarvi questa sera è una storia che parte dalla Russia. È la storia di un fucile d'assalto, si chiama AK-47, comunemente detto Kalashnikov, dal nome del suo inventore. Bene, questo fucile è stato prodotto e regolarmente venduto negli anni 70. Dopo alcuni anni, dopo essere stato imbracciato da un militare russo, il numero di serie di quel Kalashnikov è stato cancellato. Quel Kalashnikov è sparito, si sono perse le tracce, e riappare alcuni anni dopo imbracciato da un mujahideen in Afghanistan che combatte proprio con i russi. Alcuni anni dopo ancora, quello stesso Kalashnikov, lo rivediamo nelle foreste congolesi, imbracciato da un guerrigliero di uno dei tanti gruppi ribelli che affollano quella regione. Oggi a Nessun luogo lontano tentiamo di fotografare un fenomeno incredibilmente ampio e sommerso che è il traffico illegale di armi. E per fare questo ci affidiamo a un'esperta, è Simonetta Grassi del United Nations Office on Drugs and Crime, che ringrazio e saluto. Dottoressa Grassi, buonasera, benvenuta al programma. Buonasera. Allora, innanzitutto, per comprendere meglio questo fenomeno che è molto difficile da fotografare proprio per la sua natura, perché è sommerso, le chiedo proprio innanzitutto una definizione. Che cosa intendiamo per traffico illecito di armi? Il protocollo delle Nazioni Unite sulla fabbricazione illecita e il traffico illecito delle armi da fuoco dà una definizione che prevede praticamente tre grandi fattispecie che realizzerebbero il traffico. Sarebbero ogni tipo di impostazione, esportazione, vendita o trasferimento di armi da fuoco, le parti o componenti o anche le munizioni che avvenga in assenza di una autorizzazione in conformità alle disposizioni appunto stabilite dal protocollo, oppure quando le armi da fuoco non sono provviste di marcatura, oppure quando al momento dell'impostazione in uno Stato queste armi non abbiano una marcatura specifica, detta marcatura all'importazione. Quindi si tratta di tre ipotesi che rendono un'arma che di per sé, diciamo, non è illecita, le armi non nascono come armi illegali, ma che lo diventano in mancanza appunto del rispetto di quelle che sono le condizioni normative dettate dal regime internazionale o dalla norma nazionale, naturalmente. Di questa seconda vita, tra virgolette, delle armi, delle rotte, di quali attori siano coinvolti in questo mercato sommerso, fiorente, estremamente lucrativo, parleremo nella puntata di quest'oggi di Nessun luogo lontano. Abbiamo tentato una missione quasi impossibile, ricercando dati che ce ne sono molto pochi, per dare una dimensione a quello che è il traffico illecito di armi. L'ascoltiamo insieme. Secondo le stime fornite dall'Organizzazione Mondiale delle Dogane, il valore finanziario del traffico illecito di armi leggere e di piccolo calibro nel mondo arriva a $1 miliardo ogni anno. Per le loro dimensioni, la facilità d'uso e i prezzi accessibili, le armi leggere e le armi da tasca sono quelle più utilizzate in 46 dei 49 conflitti regionali registrati dall'ONU dal 1990 ad oggi, causando 500.000 vittime all'anno. Ad aggravare il volume delle armi diffuse illegalmente contribuisce, già a monte della catena del traffico, la scarsa trasparenza nell'interscambio autorizzato di armi tra Stati e la totale assenza di norme vincolanti che prevengano il trasferimento e l'importazione di armi e munizioni da paesi sui quali vige un embargo. Attualmente, infatti, non esistono criteri univoci e universalmente applicabili per disciplinare il commercio transfrontaliero di armi regolarmente autorizzato dai governi, nonostante siano più di 2.000 le persone che ogni giorno vengono uccise da un'arma da fuoco. Tra le armi più diffuse illegalmente c'è il fucile AK-47, meglio noto come Kalashnikov, così chiamato dal nome del suo inventore, Mikhail Timofievich Kalashnikov, che progettò l'arma per l'Armata Rossa Sovietica nel 1947. Del peso di 4 kg, per una lunghezza di 860 mm ed una potenza di tiro fino a 400 metri, questo fucile d'assalto è utilizzato dalle forze armate di 50 stati e da numerosi gruppi e organizzazioni armate nel mondo. La sua enorme diffusione è data anche dalla sua facile reperibilità, sia come eccedenza di produzione di modelli più obsoleti che come residuato bellico. Attualmente il prezzo medio di un AK-47 nel mercato nero è di $534. I più economici sono quelli prodotti in Russia e Cina, lievemente più cari quelli prodotti in Nord Corea. In Africa, nella zona del delta del Niger, il prezzo scende a soli $75. In Sudan, per comprare il Kalashnikov da un trafficante, bastano $86 per un adulto e $33 per un bambino. Se ci spostiamo in Afghanistan, un AK-47 di produzione cinese vale $400, mentre in Iraq i trafficanti chiedono dagli 800 fino ai $2000 per quello che era il modello preferito da Osama Bin Laden. Nel mercato nero interno alla California, negli Stati Uniti, l'AK-47 costa $400, ma al di là del confine con il Messico arriva a costare dai 1400 fino ai $3000. La maggior parte degli acquirenti dei trafficanti d'armi californiani sono i cartelli messicani del narcotraffico. Questi i numeri e i dati del traffico di armi. Siamo con Simonetta Grassi, esperta di questo tipo di traffico dell'Ufficio Antidroga e Crimine delle Nazioni Unite. È un'agenzia dell'ONU che si occupa proprio di monitorare eventualmente dare raccomandazioni su questo fenomeno. Dottoressa Grassi, sinteticamente, perché è un'impresa ardua, ma quali sono le zone nel mondo dove si concentra maggiormente il traffico illegale di armi? Allora, sono diverse le zone, naturalmente sono le zone dove ci sono anche i maggiori conflitti armati da un lato, quindi abbiamo naturalmente l'Africa, tutti i paesi che vanno in realtà dall'Africa occidentale, abbiamo adesso tutto il problema della regione dello Sahel con le armi che vengono provenienti dalla Libia, diciamo il continente africano, tutta la zona del Medio Oriente naturalmente, l'Afghanistan e poi in l'America Latina. I due continenti che sono maggiormente colpiti, possiamo dire, sono l'Africa e l'America Latina. Allora adesso una piccola pausa, sempre informazione con i colleghi del GR, poi di nuovo Nessun Luogo Sarà Lontano. Nessun luogo, nessun luogo è lontano. A Nessun Luogo è lontano il traffico illecito di armi, la seconda vita, tra virgolette, che i Kalashnikov, le pistole o i missili o altre armi d'assalto hanno nel mondo. Stiamo tentando di fotografare quelle che sono le zone cruciali, le zone più calde, lo stiamo facendo con Simonetta Grassi dell'Ufficio Antidroga e Crimine dell'ONU. E adesso però io vi propongo di ascoltare insieme una piccola intervista che abbiamo realizzato con Robert Moog, che si è fatto autore di un progetto interessantissimo, si chiama Mapping Arms Data. Poi su Facebook segnaleremo il link dove potete con un colpo d'occhio valutare voi stessi la portata di questo progetto. Muga è Research Director presso l'Igarapé Institute di Rio de Janeiro ed è responsabile di questo progetto in collaborazione con Google Chrome. Ascoltiamo insieme. Robert Muga, qual è lo scopo di questo progetto? Il progetto è nato dall'iniziativa comune di Google Ideas, che è la fondazione di Google, e la mia ONG in Brasile, che si chiama Igarapé Institute. L'iniziativa è sorta perché Google è sempre più preoccupata dalla natura dei traffici illeciti a livello globale, siano essi di armi da fuoco, droga, bambini, prestazioni sessuali. E così Google ha promosso questa iniziativa, che è iniziata lo scorso anno e che attualmente è ancora in corso, con lo scopo di portare all'attenzione del maggior numero possibile di persone in cosa consiste esattamente la natura dei traffici illeciti internazionali e di come alcuni beni siano in realtà prodotti per il mercato legale, per poi finire nelle rotte illecite e sommerse dello stesso mercato. Robert, la mappa interattiva che sto guardando in questo preciso momento, che cosa mostra più efficacemente alla prima occhiata, secondo te? La mappa mostra tutte le transazioni illegali e autorizzate di armi da fuoco e prodotti militari, avvenute tra stati dal 1990 al 2010. Quindi, guardando la mappa, interagendo con essa o spostando il focus, ciascuno può visualizzare ogni singola esportazione o importazione di armi leggere e munizioni in termini di volume avvenute nel corso degli ultimi 20 anni. Stiamo parlando di mercato legale, quindi? That's right. So the data that is behind the map. Esattamente. I dati nella mappa virtuale sono dati provenienti dall'Organizzazione Internazionale delle Dogane e si riferiscono a transazioni autorizzate e registrate dagli Stati, compresa l'Italia. Per la mappa abbiamo raccolto 1,5 milioni di dati, quindi stiamo parlando di un dataset davvero enorme, che la mappa permette di visualizzare in maniera semplificata e accessibile. Ma la questione è che quasi tutte le armi iniziano la loro vita legalmente. Ciò significa che sono prodotte e costruite da fabbriche autorizzate o da grandi compagnie, con autorizzazioni e licenze da parte dei governi. Poi queste armi vengono esportate verso altri stati, solitamente per scopi legittimi, per l'equipaggiamento di soldati, della polizia o per i privati cittadini. Ma quello che spesso accade è che c'è un momento da quando l'arma è prodotta a quando viene commercializzata, in cui questa scivola fuori dalla catena legale e finisce nelle mani di attori che altrimenti non sarebbero autorizzati al possesso di armi da fuoco. Da quel momento le armi smettono di essere rintracciabili, per cui la mappa contiene dati relativi al traffico legale di armi, ma offre anche una visione di quelle che potrebbero essere le rotte geografiche dei network illegali. E questa è la prossima domanda che voglio farti. Assumendo che ogni arma prodotta nel mondo può avere, per così dire, una seconda vita illegale, hai mai pensato di fare un progetto simile a questo per la mappatura del traffico illegale di armi? Un progetto che sia in grado di illustrare il fenomeno sommerso? In primo luogo, oltre 55-56 stati producono armi leggere e oltre 120 stati al mondo producono armi di piccolo calibro, cioè fucili e pistole. In secondo luogo, la gran parte delle armi che circolano per le nostre strade diventano illegali, cioè entrano in una seconda vita, come hai detto tu, già all'interno dello stesso stato nel quale vengono prodotte legalmente. Per fare un esempio, nel paese in cui io vivo, il Brasile, che è il quarto maggiore esportatore al mondo di armi leggere e munizioni, ci sono 57.000 persone uccise ogni anno, delle quali circa l'87% sono morti per arma da fuoco. E le armi con cui vengono uccisi non provengono dagli Stati Uniti o dall'Italia, ma sono armi prodotte in Brasile e destinate all'esportazione. Quindi il valore della mappa è quello di mettere in luce il fatto che quello della diffusione illegale di armi è spesso un problema domestico che si verifica all'interno dei confini dello Stato che le produce. Ma per tornare alla tua domanda, sì, noi speriamo di poter dare vita a una seconda mappa che rintracci i percorsi illeciti del traffico di armi e munizioni. Ovviamente, come immaginerai, è molto complicato disegnare un quadro completo e comprensibile del traffico illecito. Noi sappiamo che il valore delle transizioni per il commercio legale e autorizzato globale di armi di piccolo calibro, cioè quello mostrato dalla mappa, ammonta a 8,5 miliardi di dollari all'anno, che è soltanto una piccola parte del valore globale delle transazioni per il commercio di armi e prodotti militari, inclusi quindi anche missili, carri armati, aerei, che si registrano ogni anno. Dalle informazioni che siamo riusciti a raccogliere fino ad ora, il commercio illegale di armi non supera probabilmente il valore di 1,5-2 miliardi di dollari all'anno. È un commercio molto più modesto di quello legale e autorizzato. Per cui sappiamo già che la mappa che ne trarremo sarà significativamente più ridotta per dati e dimensioni. Robert, in questo puzzle insanguinato che stai cercando di illustrare ci sono dei buchi neri? Ci sono cioè degli stati che non sei in grado di controllare e dei quali non riesci a ottenere alcun dato? Sì, se si guarda la mappa online su Google Chrome è immediatamente visibile che ci sono alcuni stati che appaiono, come hai detto tu, dei buchi neri, che non hanno mai fornito dati all'Agenzia Internazionale delle Dogane, o li hanno forniti in maniera parziale. Se per esempio guardi l'area del Centro e Sudafrica, noterai che ci sono molte meno informazioni che altrove sulle importazioni. Ma i buchi neri restano soprattutto in Sudan, Ruanda, Congo, nelle zone del corno est dell'Africa. Un'altra area geografica di cui possediamo pochi dati è l'Asia orientale, in particolare la Cina. La Cina pubblica dei numeri ufficiali circa le proprie esportazioni di armi leggere, ma dai dati che abbiamo raccolto per costruire la mappa, Sappiamo che le esportazioni reali delle armi cinesi sono molte di più di quelle registrate. Le zone più trasparenti sotto questo aspetto sono sicuramente l'Unione Europea e il Nord America e alcuni paesi del Sud America. Robert Muga, grazie mille per aver partecipato a Nessun Luogo Lontano. It was a pleasure. E questo è il lavoro di Robert Muga, ripeto il colpo d'occhio, cliccate sul link che vedete sulla nostra pagina Facebook Nessun Luogo Lontano, trattino Radio 24 e valuterete voi stessi l'importanza di questo progetto. Ma torniamo a Simonetta Grassi. A lei chiedo quali sono le caratteristiche che vi devono essere perché avvenga un traffico di armi tra due zone nel mondo. Penso ad esempio in prima istanza a governi più o meno corrotti o a confini porosi o poco controllati. Ecco sì, diciamo che i fattori o le condizioni che possono permettere il traffico di armi sono molteplici, alcuni sono analoghi o simili anche ai fattori che determinano altre forme di traffici illeciti. Innanzitutto la domanda e l'offerta, ovviamente. Poi, in aggiunta a ciò, c'è da dire che esistono delle condizioni obiettive e delle condizioni anche molto soggettive. Condizioni obiettive sono quelle dovute alla porosità dei confini, l'incapacità di alcuni paesi di far fronte, di controllare le proprie frontiere. Ovviamente a ciò si aggiunge anche il fattore umano, la corruzione che è presente, onnipresente in qualsiasi paese si guardi, non è soltanto una questione di un paese ricco o povero, sì. Il fattore, l'elemento umano e poi anche la diversità, la differenza che esiste fra le normative, fra le leggi nazionali di un paese o dell'altro che possono addirittura creare una domanda. Un paese in cui l'acquisto di un'arma, per esempio, viene è facilitato dalla mancanza di controlli oppure dall'assenza di requisiti specifici, favorisce una maggiore domanda per l'acquisto di queste armi. Abbiamo un esempio analogo nel confine fra gli Stati Uniti e il Messico, dove l'acquisto delle armi da fuoco è pressoché proibito ai privati in Messico, però c'è una prassi, una facilità di acquisto negli Stati Uniti che fa in modo che si crei una domanda e poi quindi anche un flusso molto molto importante di armi da un paese all'altro. Ovviamente è anche una questione di volontà politica, perché esistono norme internazionali che prescrivono determinate condizioni, determinate normative che devono essere adottate dai paesi e che potrebbero arginare o perlomeno prevenire o ridurre questi rischi. Vorrei anche aggiungere che il traffico può prodursi sia può proprio nascere come un atto di contrabbando, come succede anche con altre sostanze, con altri oggetti, anche con la droga per esempio, oppure avviene nel corso di un'esportazione che nasce come un'esportazione illecita e poi risulta o viene deviata oppure a monte risulta che vengono utilizzati documenti falsi. Quindi esistono anche diverse modalità che permettono il traffico, appunto, e qui la risposta di nuovo è la mancanza di capacità dei paesi di controllare, di prevenire anche lì i rischi di una deviazione di quello che è il traffico lecito che poi diventa illecito. Sì. In questi casi, parlando di volontà politica, mi viene in mente un caso che potrebbe essere un caso di scuola, il caso del Sudan e del Sud Sudan. Sappiamo che il Sudan è un paese al centro del traffico di armi, la cronaca peraltro ci ha raccontato recentemente di quel bombardamento appunto di un convoglio di armi presumibilmente destinate verso la striscia di Gaza o verso il Sinai. Ebbene, Sudan e Sud Sudan foraggiano reciprocamente gruppi ribelli dall'una e dall'altra parte, è ovvio che in quel caso, come dire, manchi assolutamente la volontà politica di arrestare il flusso dei armi in un confine che resta, come suggeriva anche lei stessa, estremamente poroso. E poi ha toccato un punto fondamentale, che è quello che insomma il traffico di armi rimane un business estremamente lucroso. Scendiamo ancora di più nel dettaglio, vi porto in Afghanistan con Matt Schroeder di Small Arms Survey. La prima domanda è molto semplice. Volevo chiederle che cosa emerge dal vostro studio. So che lei in particolare si è occupato di un focus sull'Afghanistan. Può riassumerci brevemente che cosa è emerso dalle vostre ricerche? Certamente. Il report è parte di uno studio condotto dallo Small Army Survey di Ginevra, insieme con la Federation American Scientist di New York. E il focus di questo studio è il traffico illecito di armi leggere e di piccolo calibro a livello globale. Nella fattispecie, il report che hai menzionato procede nell'analisi del traffico illecito di armi leggere in zone in cui sono presenti conflitti di alta intensità, ovvero dove si registra un numero di vittime sul campo superiore a 1000. I case study che abbiamo utilizzato per il nostro report sono l'Iraq, l'Afghanistan e la Somalia, nei quali abbiamo raccolto dati relativi alla diffusione di circa 80.000 pezzi di armi e munizioni. Quello che abbiamo riscontrato in generale è la sorprendente mancanza di tecnologie sofisticate nelle armi diffuse in questi paesi e la continuità nel tipo di armi utilizzate e diffuse nell'arco di anni o addirittura decadi. Le armi oggetto del contrabbando appartengono alla prima o al massimo alla seconda generazione. Quindi stiamo parlando di armi prodotte 40-45 anni fa. Non abbiamo invece trovato molte armi di ultima generazione, come per esempio i missili telecomandati. Lo studio mira a evidenziare quanto sia relativamente facile trovare quest'arma, il Kalashnikov, che è veramente molto diffusa, si può dire sia un'arma universale. Al tempo stesso evidenzia quanto sia difficile, per esempio, trovare un'arma nuova come la Beretta RX. I nostri dati sul traffico di armi di piccolo calibro non sono così approfonditi da capire a quali modelli esattamente appartengono le armi trovate negli arsenali presi a oggetto del nostro studio. Ma ci sono sicuramente alcuni modelli di armi leggere che si trovano in quantità molto ridotta, come i fucili M4 ed M16, che solitamente sono utilizzati dalle forze di coalizione, specialmente dalle truppe statunitensi. Le faccio l'ultima domanda, professore, quali sono le vostre raccomandazioni per combattere il fenomeno? Sì, dipende ovviamente dal tipo di armi di cui stiamo parlando, ma come ho detto, i nostri dati suggeriscono che la maggior parte delle armi illecite sono modelli vecchi, obsoleti, che non sono più nemmeno in produzione. Molte di queste armi non sono quasi più nemmeno utilizzate e restano nascoste in arsenali insicuri. Per cui quello che la comunità internazionale dovrebbe fare è raddoppiare gli sforzi per aumentare la sicurezza delle scorte e degli arsenali di armi e distruggere gli stock di armi prodotte in eccedenza. E fare questo anche e soprattutto nelle regioni più vulnerabili, come la Libia, l'Iraq. Molte delle armi diffuse nella regione irachena immediatamente dopo l'invasione americana sono state prelevate segretamente dall'arsenale di Saddam Hussein e nessuno sa ancora di che tipo di armi si tratti o a che generazione di modello facciano riferimento. Quindi ritengo che se c'è una politica che dovrebbe essere prioritario seguire è proprio quella di ridurre gli arsenali di armi e munizioni dei regimi e governi altamente vulnerabili e rafforzare la protezione e sicurezza di quegli arsenali. A primary focus it's reducing those surplus stocks and securing insecure government stockpiles of weapons. Nessun luogo è lontano. The world is a vampire. E questo era il caso afghano, ebbene dalla terra, dalla polvere, dalle montagne dell'Afghanistan, per fotografare in qualche modo un fenomeno molto articolato, in parte sommerso, molto difficile da catturare, da capire, da comprendere. Ci proviamo con Simonetta Grassi dell'Ufficio Anticrimine e Droga dell'ONU. Grassi, voi come ufficio fotografate il fenomeno, ma date anche raccomandazioni, date suggerimenti ai governi del mondo per combattere questo fenomeno. Sì, allora noi come ufficio contro la droga e il crimine delle Nazioni Unite ci occupiamo soprattutto di questa dimensione. Esistono delle norme internazionali, fra cui appunto il protocollo sulle armi da fuoco che complementa la Convenzione di Palermo contro la delinquenza organizzata transnazionale, contro la criminalità organizzata, che è all'attualità l'unico strumento globale giuridicamente vincolante che detta delle disposizioni che potrebbero aiutare i paesi, che promuove la cooperazione fra le parti al fine di prevenire, combattere e anche eradicare la fabbricazione e il traffico illecito delle armi. Quindi il protocollo rappresenta una base minima, un minimo comune denominatore e potrebbe quindi aiutare i paesi a non solamente promuovere e rafforzare la loro cooperazione al fine di prevenire e anche combattere la fabbricazione e il traffico illecito delle armi, ma potrebbe contribuire anche a standardizzare quelle che sono le misure minime. Le misure minime consistono nel assicurare che uno Stato che fabbrica le armi o uno Stato che importa le armi abbia sempre in qualsiasi momento il controllo, la conoscenza di quali armi, quanti armi va nel suo paese, chi le possiede, dove stanno. La cooperazione internazionale è fondamentale per la tracciabilità delle armi, sì, per capire da dove vengono e così identificare quali sono le rotte del traffico internazionale. E sì, vorrei anche aggiungere, ecco, è importante che i paesi armonizzino non solo le loro norme ma anche le loro prassi, che ci sia una cooperazione più intensa e più spregiudiziata, cioè senza pregiudizi e sì, senza riserve mentali, perché purtroppo è un tema molto sensibile. E vorrei aggiungere, quest'estate la comunità internazionale ha cercato di adottare un trattato sul commercio delle armi che avrebbe introdotto dei criteri per regolare quello che è il commercio lecito delle armi. Non sono riusciti finora ad adottarlo, non c'è stato consenso. A marzo ci sarà un'ultima sessione, questa è un'informazione nuova, recentissima, l'Assemblea Generale ha appena adottato una risoluzione che apre di nuovo le negoziazioni per altre 2 settimane a marzo, e penso che queste siano le premesse fondamentali iniziali: avere delle norme comuni, dei criteri, cioè definire meglio quello che è lecito, quello che è permesso, avere delle disposizioni penali, anche delle fattispecie penali che permettono la criminalizzazione di certe condotte. In molti paesi esistono norme, esistono disposizioni che regolano la fabbricazione e l'importazione e l'esportazione, ma vi è un'assenza spesso anche di fattispecie penali. Anche in questo caso la cooperazione internazionale non può funzionare perché non vi è una unità di visione. Quindi è importante che i paesi si conformino, che ci sia un minimo di volontà di adottare una base comune, che è data oggi dal protocollo sulle armi da fuoco e forse domani anche come complemento da un trattato sul commercio delle armi. Ecco, poi c'è da non dimenticare, l'abbiamo già ribadito in trasmissione, ma l'importanza economica di questo business lo è già quando è regolato, perché comunque le lobby delle armi nei vari paesi svolgono una funzione importante e spingono affinché si possano produrre armi e commercializzare armi, e tanto più quando queste armi passano a seconda vita. Dobbiamo ricordarci i milioni e milioni di dollari che i trafficanti possono intascare grazie a questo commercio. Io ringrazio Simonetta Grassi per essere stata con noi e averci aiutato a fotografare quantomeno minimamente il tema di quest'oggi. Grassi, buona serata, buon lavoro. Grazie. I'm gonna get me a gun. Il traffico illecito di armi, questo mercato sommerso, fiorente e lucrativo che abbiamo tentato di fotografare in questa puntata, chissà se vi sarà la volontà politica dei grandi paesi nel mondo di aderire a questo trattato, e chissà veramente se si riuscirà a debellare questo fenomeno. Chi combatte strenamente contro questo fenomeno lo fa in maniera bizzarra, se volete assolutamente laterale, è Pedro Reyes, è un artista messicano. Beh, se dovessimo dare un titolo, il titolo vero della sua installazione Imagine è stata presentata alla Biennale d'Arte di Gwangju in Corea del Sud lo scorso settembre. Beh, a me verrebbe da rititolarla Uso improprio delle armi. E che cosa fa Reyes? Fondamentalmente da armi requisite lui ottiene degli strumenti musicali. Pedro, il tuo progetto sembra davvero interessante. Puoi raccontare agli ascoltatori che cosa stai facendo con le armi? Le armi che utilizziamo nel nostro progetto Imagine ci sono state date dall'esercito messicano, che le ha sequestrate nel corso di varie operazioni regolari. L'idea che l'esercito ci aveva proposto era di realizzare una scultura, ma io ho pensato di fare di quelle armi qualcosa di diverso da una scultura, qualcosa che si potesse utilizzare come sono appunto gli strumenti musicali. Perché la mia idea di fondo è di trasformare quegli agenti di morte in agenti di vita. Cioè di contrapporre fucili e pistole, che sono la cosa più primitiva e bestiale che l'umanità possa produrre, in musica, che è invece una delle cose più belle ed eleganti prodotte dall'uomo. Allo stesso tempo volevo trasformare le armi in uno strumento di comunicazione e di esperienza comune. Dobbiamo anche ammettere che il problema è particolarmente sentito nel tuo paese, in Messico. Considerando che le cifre del traffico illecito di armi nel mondo sono molto elevate e anche nel tuo paese se ne possono vedere gli effetti, volevo chiederti qual è la tua posizione sul traffico di armi, sul traffico illegale si intende, non il commercio regolarmente registrato fra governi. Il problema è che le grandi industrie d'armi hanno una forte rete di sostegno sociale e giuridico. Per esempio, negli Stati Uniti, la National Rifle Association ha speso milioni di dollari per promuovere l'acquisto di armi ad alta potenzialità. E il presidente Obama ha fallito nel varare una legge che avrebbe vietato l'utilizzo privato di armi d'assalto, che sono armi specificamente disegnate per il combattimento. Non sono armi che nascono per lo sport o per l'uso domestico. Eppure possono essere liberamente acquistate in internet. Il problema quindi è anche questo, che negli Stati Uniti è molto semplice comprare armi da fuoco, che poi possono essere trasportate oltre il confine con il Messico. Quindi la verità è che anche gli Stati Uniti sono un vicino pericoloso. Anzi, sotto certi aspetti si può dire che gli Stati Uniti sono più pericolosi per il Messico di quanto non sia il Messico per gli Stati Uniti, soprattutto per i villaggi e le città vicine alla frontiera, che a causa del traffico illecito e della presenza così diffusa di armi ad alta potenzialità, sono diventati dei luoghi molto pericolosi in cui vivere. Risposta chiarissima, grazie Pedro Reyes per essere stato con noi a Nessun Luogo Lontano. Posteremo su Facebook il link dove potrete osservare le sue creazioni. Ma ora siamo in chiusura, non mi resta che ringraziare Nadia Zammiti che ha confezionato con me questa puntata, Matteo Comes che invece le ha dato la musica e il ritmo giusto, voi gentili ascoltatori per essere stati ancora una volta all'ascolto di Nessun Luogo è Lontano. E allora vi ricordo che siccome Nessun Luogo è Lontano, noi ci risentiamo sabato 19:15. Un saluto da Giampaolo Musumeci.